Bella ragazzi, benvenuti e benvenute a tutte alla primissima puntata di questa nostra nuova serie che si chiama La finestra sul giardino. Anche se deluderemo molti di voi, non vi daremo consigli su pomodori e ravanelli né su come coltivarli. Cosa faremo allora? Lo scopriamo tra poco. Matte, vai con la sigla! Eccoci qua di nuovo. Innanzitutto ci presento. Siamo cinque ragazze e ragazzi. Io sono Edo e sono giardiniere e insegnante. C'è Caro, giardiniera antropologa. Ciao! E noi due saremo con voi per la maggior parte delle puntate. Con noi ci saranno anche Matte, formatore e progettista. Ciao! Fabri, apicoltore e falegname. Ciao! E Paola, progettista e ortista. Ciao! Ci siamo incontrati tutti allo spazio dei 300 scalini. Per chi non lo sapesse o non lo conoscesse, è uno spazio pubblico all'interno del Parco di San Pellegrino, recuperato ormai una decina di anni fa da un'associazione, il Teatro dei Mignoli. Con un occhio a San Luca e l'altro sulle colline intorno, alla città, abbiamo dato vita a tutti i pipponi sul mondo delle piante con cui speriamo di incuriosirvi in questa serie di puntate. Ma prima ascoltiamo il primo pezzo che Fabri ha selezionato per noi. Thank you. Tash Sultana con Jungle. Vi chiederete perché il bisogno di uscire dai nostri ruoli tradizionali e improvvisarci speaker radiofonici. È una domanda che va fatta caro questa. Che ci ha obbligati. No, scherzo. In realtà quello che ci spinge è un desiderio di condividere le nostre riflessioni sul verde e sulla natura. Abbiamo costruito in questi anni innanzitutto uno sguardo diverso sul giardino e sulla gestione delle piante e sul dialogo tra noi e loro. E vorremmo disseminare e contaminare il più possibile il nostro sguardo e trovare nuovi alleati che come noi vogliano prendersi cura del grande giardino in movimento di cui facciamo tutti parte. Vero Matte, caro? Certo. Sì, è vero, però a me già sorge una domanda. Parlavi di giardino in movimento, ma effettivamente che cos'è? Il giardino in movimento, grazie Matte per la domanda. Il giardino in movimento è una formula, un'espressione coniata da Gilles Clément, che è un botanico e paesaggista francese, ma come amerebbe farsi definire lui, un giardiniere, che appare per la prima volta nel testo omonimo, appunto, Il giardino in movimento. Per raccontarvi e descrivervi il senso di questa espressione, mi piacerebbe partire da una citazione che vi leggo. Quando un'opera è compiuta, è già morta. La natura, al contrario, non termina mai nulla. Questa citazione, secondo me, è importante perché contiene al suo interno, condensati e quindi a loro agio, come in ogni citazione, gli elementi principali della sua poetica, di questo concetto, che è un concetto che è sia un approccio al mondo del vivente, quindi alla natura, e sia un tentativo di costruire uno specifico campo di applicazione di tale approccio. Ovviamente il tempo che abbiamo non è sufficiente per entrare in profondità dentro tutti i campi di applicazione di questo approccio, quindi proviamo a raccontarlo e a descriverlo in maniera più generale possibile. Quindi, partendo da questa definizione, cioè il giardino in movimento, notiamo subito uno sfasamento rispetto al tradizionale modo di intendere il giardino, che è quel luogo di incontro tra l'uomo e la natura. Questo sfasamento ci descrive un approccio al giardino secondo il quale il giardino non è più qualcosa di stabile e definito, non è più la manifestazione domestica dell'assoggettamento della natura ad opera dell'uomo, ma è il movimento inarrestabile della natura, piante, animali, insetti, funghi, eccetera, con cui l'uomo deve entrare in relazione. Clément ci esorta innanzitutto ad osservare, e ci tengo a precisare che questo è proprio l'invito più rilevante delle nostre puntate, cioè quello di osservare la natura. Dicevo, Clément ci esorta a osservare e a secondare tutte quelle azioni che rompono i confini in cui fino a questo momento abbiamo costretto gli altri viventi. Siamo abituati, per esempio, a credere che il prato abbia un unico colore, un'unica tessitura e soprattutto che non fiorisca, o che l'aiuola sia un'entità distinta, intoccabile, distante, quasi come un quadro, oppure ancora che un campo incolto di erbe spontanee non possa essere un giardino. Queste altre infinite visioni rispondono a un'esigenza di ordine e di forme che vede la natura come un oggetto finito, un'opera conclusa, per ritornare alla citazione iniziale. Invece, comprendere il movimento delle piante e delle sue forme ci permette di cambiare punto di vista e entrare in relazione con un altro abitante del pianeta, il quale, a differenza nostra, è ben consapevole della rete ecologica in cui tutti siamo inseriti. Proviamo, per esempio, a fare un piccolo esercizio di immaginazione. Osserviamo il nostro pianeta dall'alto e lentamente avviciniamoci alle nostre città. Oltre alle foreste, ai parchi e ai giardini domestici, scorgeremo un'infinità di piccole macchie verdi, scomposte e disomogenee, che si insinuano tra l'asfalto, lungo le strade e ai margini del nostro controllo. Ecco, quelli sono tutti piccoli giardini in continuo movimento, nodi di una rete planetaria verso cui siamo tutti giardinieri. Este amor apasionado anda todo alborotado por volver, voy camino a la locura, y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver. Brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés. Yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. Dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón. Le hago caso. Ok, caro, dici un po', secondo te com'è che si comporta effettivamente il giardiniere nel giardino in movimento e soprattutto in che cosa differisce dall'idea standard di giardiniere che abbiamo tutti? Sì, tanti sono abituati a pensare al giardiniere come colui che cerca di mantenere il disegno precostruito dello spazio verde, che ha un approccio razionalista e cartesiano verso lo spazio, che cerca di imporre un certo bon ton al giardino. Tutti noi conosciamo infatti per esempio le siepi rettangolari, gli arbusti geometrici, il prato uniforme, l'ossessione verso il mantenimento delle aiuole immobili. Quindi questo è un giardiniere che arresta, blocca il movimento assunto dalle piante e il loro movimento invece comunica segnali, avvertimenti, informazioni, prospettive, tutto quanto è messaggio. Ok, allora caro, qua stiamo cominciando a usare un po' troppe parole difficili, quindi la voglio buttare in cacciara. Diciamo che se ogni parrucchiere è anche un po' psicologo, allora anche ogni giardiniere è un po' antropologo. Vabbè, esagerando ovviamente, però diciamo che come un antropologo anche il giardiniere deve cercare di ascoltare e interpretare piuttosto che classificare o comunque imporre le sue chiavi di lettura, no? Sì, il parallelismo tra l'antropologo e il giardiniere è interessante per il nostro discorso perché l'antropologo, come il giardiniere, si inserisce nel contesto abitato cercando di comprendere il gioco di relazioni in atto, le configurazioni impreviste assunte dallo spazio, cerca di intercettare il quadro indiziario del giardino e quindi di comprendere questi messaggi dati dalle forme organiche in movimento che abitano lo spazio e poi decide di intervenire. Quindi apre uno spazio di negoziazione tra la sua prospettiva, data da una commistione tra la sua soggettività e il sapere botanico e agronomico preso dall'esperienza, e quella invece appresa dalle informazioni date dal giardino. Si viene a creare un rapporto infraspecifico tra le forze agenti in atto. Quindi non aprire questo spazio di dialogo come fa il giardiniere del giardino standard che, a cui abbiamo fatto riferimento prima, significa fa sì che il giardino venga slegato dal suo decorso storico e sociobiologico. Quindi l'obiettivo del giardiniere, del giardino in movimento, non è la conservazione della biodiversità locale, ma la preservazione del processo di trasformazione della biodiversità locale. Riportiamo alcuni esempi. Allora, se io progetto un'aiola con delle erbacee annuali, biennali o perenni e si autodisseminano per lo spazio. La stagione successiva le trovo dislocate, insediate in altre zone del giardino. Io, invece di falciarle, posso, e quindi mantenere il disegno precostruito del giardino, posso decidere di accompagnare il suo movimento, i suoi input, e valorizzare ed evidenziare i nuovi insediamenti, i nuovi angoli costruiti dall'intenzione, in questo caso, del giardino. Oppure, se un rampicante si intreccia su un albero in fin di vita, io invece di estirpare il rampicante posso in qualche modo accompagnare il suo intreccio. Oppure, invece di seminare un prato uniforme, io posso decidere di seminare un prato misto, lasciarlo andare in fiore, quindi di conseguenza alimento il movimento del giardino, perché le infiorescenze attirano gli agenti impollinatori che portano nuovi arrivi e di conseguenza tutto il ciclo poi del mutamento e del giardino in movimento. Ok, quindi forse Clément esorta il giardiniere, e quindi credo anche un po' tutti noi, ad accettare l'incertezza e comunque lasciarsi consigliare, cioè anche lasciar cadere per un po' l'egemonia, diciamo, delle nostre categorie di pensiero, anche soltanto come piccolo esercizio di convivenza, no? Sì, Clément ci esorta ad abbandonare una presunta neutralità scientifica, come ad abbandonare l'esclusivismo delle regole estetiche e paesaggistiche, perché, come sappiamo, le piante non seguono un programma prefissato, ma seguono e interpretano solamente le regole imprevedibili date dall'ambiente. Quindi l'obiettivo è intercettare lo sfasamento, l'inceppamento sul quadro prestabilito. Siamo tutti e tutte caldamente invitati ad accompagnare la deviazione sul percorso e negoziare con l'attitudine sovversiva del giardino. Voglio restare sovversivo e sono sempre il tuo destino. Benissimo. E allora, dopo ancora sovversivo degli Schiantos, cerchiamo di tirare le somme del discorso, soprattutto dopo l'intervento di Caro che, da giardiniera e antropologa, ci ha parlato. Dunque, cosa vogliamo proporre in questa nostra serie? L'idea è quella di fare divulgazione a partire da un autore come Gilles Clément, che propone nei suoi scritti di combattere sicuramente una visione tecnocratica del mondo, cioè in qualche modo non basarsi su un programma o progetto economico, tecnocratico e cartesiano, come abbiamo detto prima, che non ha nulla a che vedere con la biologia, che invece non si può mai progettare in anticipo. Ci piacerebbe però anche collegare la teoria del giardino in movimento a una serie di altre questioni, e principalmente per due motivi, cioè perché riteniamo che un approccio interdisciplinare possa rendere le cose più interessanti per più persone, e perché crediamo che in molti ambiti del sapere e anche delle pratiche si possano applicare principi simili a quelli proposti da Clément, e quindi vogliamo cercare di ragionare, cioè aprire una riflessione sul come applicarli. Sì, infatti, Matte, cosa vogliamo rielaborare di questi pipponi e come vogliamo farne una questione interdisciplinare? Non è semplicissimo, però riassumerei così, no? In qualche modo esiste una sorta di valorizzazione dello spontaneismo e di quello che nasce autonomamente, un po' come un'erbaccia. Alt! No, io non ci sono né erbe cattive né erbe buone, quindi io utilizzerei il termine non erbacce, ma erbacee vagabonde. Ok, forse non ci piace quella parola. Allora mi scuso con tutte le amiche vagabonde. E comunque dicevo che questa valorizzazione di ciò che nasce autonomamente è in realtà un principio vecchio come il mondo, se vogliamo. Soprattutto nel pensiero di Clément possiamo vedere una sorta di opposizione fra ciò che è pianificato, è razionale, forte, egemone, molto e sin troppo umano, possiamo dire, nella nostra concezione, certo. E ciò che invece sfugge ai principi della progettazione a priori, a tavolino. Sarebbe bello invece lasciare una sorta di spazio di indecisione al quale dare un valore. Cerchiamo un attimo di anticipare degli argomenti che approfondiremo nelle prossime puntate. Nel campo dell'urbanistica vedremo l'argomento del verde urbano e l'idea delle piante come effettivi esseri viventi agenti nel mondo e nelle nostre città e non come oggetti semplice sfondo dell'agire umano. Poi faremo ampi approfondimenti sul mondo degli insetti e in particolare sul ruolo degli insetti impollinatori. Poi nel campo degli studi sociali dell'antropologia in particolare vedremo la realtà di Cascina Bollate, un vivaio di formazione professionale situato in una delle tre carceri di Milano. In ogni caso, lungo tutto il nostro percorso indagheremo il significato e l'uso di alcuni termini specifici riferiti al mondo della botanica, ma non solo. Parleremo ovviamente di piante vagabonde, ma anche di collaborazione, competizione, antropocentrismo, agency, biodiversità, evoluzione e ovviamente anche di molto altro, e cercheremo di fare anche riferimento al discorso di alcuni fra i divulgatori scientifici tra i più noti. La lumière s'y trouve, la lumière est rentrée, vérité en nous-mêmes, fruit de...